battiti e non lasciare agli altri il gusto. Questa è la tua vita, alzati. Non provare a farmi credere quello che non puoi concedermi. Dimmi cose da non crederci. Portami fuori di me, dentro di noi.